guerra in vista. L'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Sono matite, sono colori, sono pennarelli quelli che state ascoltando mentre lasciano segni su dei fogli amplificati. Questa è la colonna sonora di Terra in Vista. Loro sono i Matita. Io sono Federico Taddia, con me Telmo Pievani. Ciao Telmo. Ben trovato. Un giornalista e un filosofo della scienza per cercare di raccontare l'Expo ai più piccoli. Ogni settimana una parola, e questa parola, che è uno dei grandi temi di Expo, cerchiamo così di tradurla per i giovani ascoltatori. La parola di oggi è alimentazione, che è una parola tanto legata all'Expo proprio perché è legatissima al tema del cibo. Sì, questo è l'Expo del cibo. Con il cibo abbiamo già avuto a che fare, il cibo sono i prodotti, qua invece discutiamo dell'effetto che fa. Abbiamo chiesto che cos'è l'alimentazione ai nostri giovani ascoltatori e queste sono le loro risposte. L'alimentazione è quando un essere vivente mangia. È il cibo che si mangia. Quando mangi qualcosa e quando è qualcosa di buono. Ci sono anche vari tipi di alimentazione, tipo l'alimentazione quella che si usa per smaltire un po' il peso, che si mangia in particolare verdura e frutta, oppure c'è un'alimentazione normale che è tipo carne, pesce. Latte. È quella che facciamo noi ogni giorno. Facciamo un'alimentazione perché mangiamo colazione, pranzo e cena. Serve per crescere l'alimentazione e per vivere. Tipo mangiare sano e non mangiare sempre tanta carne o tanta pasta, perché la pasta ha dentro il sale e troppo sale fa male. La carne invece se ne mangi troppa poi fa male alla salute. E però anche la verdura e la frutta se ne mangi troppa fa male perché potresti diventare anche troppo magro. Consigli di sana alimentazione direttamente dai bambini. Quindi l'alimentazione è questo termine, questo gesto che ti fa crescere. È tornato molte volte il concetto di crescere nelle parole che abbiamo appena ascoltato. Beh sì, quindi sono stati bravissimi i bambini perché hanno associato un'azione, il mangiare, e poi hanno detto, e poi ci sono tanti tipi di alimentazione. Proprio questo è il problema, l'alimentazione è il complesso di cose che noi mangiamo, che può essere più o meno equilibrato, che è fatto di tante cose diverse. Come hanno detto i bambini, può essere buono o può essere cattivo, cioè essere sbilanciato. E l'alimentazione è il modo con cui gli esseri viventi si sostentano, appunto, crescono. Noi abbiamo scelto la strada della diversità, ci cibiamo di tutto, la nostra è un'alimentazione estremamente diversificata. Altri animali invece si specializzano, per esempio le zanzare si alimentano di sangue, oppure, che ne so, i fringuelle di Darwin che abbiamo già incontrato devono la loro diversità al fatto che hanno cambiato alimentazione. Qualcuno si è specializzato sui semi, qualcun altro sugli insetti, qualcuno sui vegetali e nei cactus, e qualcuno anche quelli di sangue. Pensa un po', tutte forme di alimentazione. Si usa il termine alimentare o il termine nutrire? Sono due sinonimi, anche se alimentare dà quasi l'idea che hai bisogno di energia, nutrire è qualcosa di diverso, qualcosa che ti accudisce, sembra. C'è una differenza solo di suono o sono proprio due significati anche diversi? Allora, scientificamente sono praticamente la stessa cosa, però poi la lingua è piena di aree semantiche che cambiano, quindi nutrire in effetti, e poi lo slogan di Expo, significa qualcosa di più, non è necessariamente soltanto qualcosa di materiale, ma può essere nutrire la mente, allevare, accudire, cioè ha preso un significato molto più grande. Uh-huh. A proposito di alimentazione, Telmo, il tuo amico Darwin, è vero che aveva fondato un club dei ghiottoni? Sì, Darwin ha avuto diverse disavventure alimentari, appunto di alimentazione, perché da ragazzo, prima di partire per il suo famoso viaggio in giro per il mondo, aveva inventato insieme con degli amici il club dei ghiottoni, il cui obiettivo, da veri naturalisti in erba, era quello di sperimentare direttamente le carni più strane che nessuno aveva mai mangiato. Senza chiedersi che, cioè, ci sarà stato un motivo per cui nessuno aveva mai mangiato queste carni. Il club viene sciolto quando decidono di fare una cena al chiaro di luna a base di carne di gufo, che pare essere assolutamente terribile e immangiabile, e il padre di Darwin, che già non ne poteva più delle abitudini del figlio, decide di sciogliere il club dei ghiottoni. Perfetto, non sarà lui uno dei nostri ospiti di oggi in questa puntata dedicata all'alimentazione. Adesso una filastrocca, il traffico, poi qua con Terra in Vista. Trinciapollo. Trinciapollo che sganascia, niente lascia, spalla o coscia, tutto sfascia, morde e sguscia. Come biscia, ai che angoscia! Poi si pente, piange e striscia con la faccia moscia moscia. Trinciapollo che s'accascia, che s'ambascia e che ti liscia, falsa, ipocrita, ganascia. Terra in Vista. Eccoci qua quindi per parlare di alimentazione. Lo facciamo ovviamente a modo nostro, cioè partendo dalle domande dei bambini. Questa è la prima. Perché si diventa grassi? In effetti... Perché si diventa grassi? Qua arriviamo su un tema delicato. Qui infatti. Io e te come siamo messi? Così e così. Così e così, esatto. E soprattutto per capire perché si diventa grassi, quindi dare risposta a questo quesito, abbiamo chiamato un esperto che conosce molto bene Radio 24. Diamo il benvenuto ad Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Federico, ciao Telmo, ciao agli ascoltatori. Alberto, tu, insomma, il tema dell'alimentazione è proprio un tema che hai studiato tanto, sei anche autore del libro Tutti a tavola, edito dalla Erickson. Perché si diventa grassi? Diventiamo grassi fondamentalmente perché non riusciamo a smaltire con il nostro metabolismo di base, poi con le attività che facciamo, tutta l'energia che incameriamo attraverso il cibo, e quindi il nostro organismo fa un'operazione che anche in termini evolutivi è molto utile, cioè quando c'è un eccesso di energia che entra con il cibo e quella non la puoi utilizzare subito, mm-hmm. la mette via in un deposito che è appunto il tessuto adiposo, che viene conservato perché magari ci saranno momenti di carestia o momenti di grande difficoltà, e in quel momento allora riapriremo la nostra dispensa e avremo a disposizione ottime riserve per far fronte a quelle difficoltà. Mm-hmm. È sempre stato così nel corso dell'evoluzione dell'uomo. In questo momento la situazione assurda però è che noi non siamo più a rischio di sopravvivenza, noi ogni giorno abbiamo cibo disponibile e quindi dovremmo essere molto bravi a regolarci con la quantità di cibo che introduciamo, cioè mangiare solo la quantità necessaria perché non abbiamo più tempi di carestia in futuro a cui dover far fronte. E invece in questo momento questa sovrabbondanza di cibo diventa anche proprio iperaccumulo e siamo nella storia dell'umanità proprio è la prima volta che abbiamo generazioni di bambini e di minori, oltre che di adulti naturalmente, che sono sovrappeso, obesi. Alberto, ma io devo stare attento o il mio corpo mi lancia qualche segnale al di là dell'aumento di peso? Perché se io devo trovare questo giusto equilibrio tra quello che metto dentro e quello che utilizzo, sapendo che però il mio corpo magari pensa che ci possa essere una carestia in futuro, quindi fa delle riserve, come faccio a educare il mio corpo? Ma questa è proprio una domanda perfetta, cioè noi abbiamo proprio dentro di noi dei dispositivi nel nostro sistema nervoso centrale che regolano la sensazione di fame e la sensazione di sazietà, il che significa che di fronte al cibo noi dovremmo, se riuscissimo a sentire e a rimanere bene in contatto con le nostre sensazioni interne, essere perfettamente in grado di autoregolarci e quindi assumere cibo in qualità e quantità adeguate per il nostro bisogno. Questa capacità di ascoltare i messaggi provenienti dal corpo è quella che abbiamo proprio progressivamente perso negli ultimi 50-60 anni. Vi potrei spiegare un esperimento che ho trovato davvero interessante in questo senso, cioè hanno preso dei gruppi di bambini negli ultimi 4 decenni e li hanno all'ora di pranzo messi di fronte a dei buffet che erano allestiti di ogni ben di Dio, sì. E hanno verificato quanto i bambini mangiavano non avendo limiti o restrizioni da parte di nessuno e quindi solo in base alla sensazione di fame che avevano ed eventualmente anche la loro golosità o addirittura ingordigia. Quello che si è scoperto è che i bambini di 40 anni fa mettevano nei loro piatti e poi consumavano una quantità di cibo che è meno della metà della quantità di cibo che mettono invece adesso nei loro piatti i bambini davanti al medesimo identico buffet. Cioè, come dire che i bambini di oggi davanti ad un buffet mangiano il doppio rispetto ai bambini di 40 anni fa, pur avendo le stesse identiche esigenze metaboliche ed energetiche. Alberto, scusa, ma non capisco, perché 40 anni fa eravamo più vicini all'epoca in cui prima c'erano state le carestie, insomma, problemi di fame. Adesso ci siamo allontanati sempre di più e abbiamo sempre più la tendenza ad abbuffarci. Com'è sta storia? Quindi forse qualcuno ci induce a questi comportamenti? Sì, direi che quello che state dicendo voi è proprio poi la spiegazione esatta, cioè siamo un po' tutti affetti da un nuovo disturbo del comportamento alimentare che si chiama iperfagia condizionata e che il mangiare in eccesso rispetto ai nostri bisogni fondamentalmente per alcuni motivi legati all'offerta di cibo. Noi siamo costantemente circondati da cibo che è sempre disponibile, questo in automatico ci fa mangiare. Molto di questo cibo iperdisponibile è anche un cibo iperappetibile, cioè di grande palatabilità, che l'industria alimentare ha costruito poi con una miscela di sali, zuccheri e grassi, tale da generare anche una sorta di forma di dipendenza neurogena cerebrale, per cui è un po' proprio come essere diventati addicted, dipendenti dal cibo che in realtà abbiamo sempre disponibile, e a quel punto noi non sentiamo più i messaggi interni del nostro corpo, ma ci sintonizziamo fortemente sulla disponibilità di cibo e di messaggi che ci provengono da fuori e che ci fanno un po' sempre sentire desiderosi di mangiare. Grazie davvero Alberto, come sempre, per i tuoi consigli, e il consiglio principe, appunto, impariamo a conoscere meglio, ad ascoltare il nostro corpo. Tutti a tavola, Erickson, il libro di Alberto Pellae. Ciao Alberto, grazie, buona terra in vista. Ciao. A voi, saluti. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Marocco. Quelli che pensano che l'Atlante sia solo un grosso libro pieno di mappe, prestino molta attenzione. Il Marocco è l'unico paese del Maghreb che possiede un'immensa catena montuosa, che raggiunge i 4160 metri di altezza e che porta proprio il nome di Atlante. Montagne dai massicci impervi, dai terreni accidentali, dal paesaggio aspro e maestoso, con villaggi abbarbicati sui pendii dove le coltivazioni resistono all'altitudine. Montagne che si addolciscono quando attraversano l'Alto Atlante per scoprire la magnifica Valle delle Rose, dove fioriscono migliaia di rose dal profumo unico. Montagne, infine, che se scalate dischiuderanno i più pregiati tesori del Marocco, cioè lo zafferano di Taliouine e i preziosi alberi di Argan. Questi sono i nostri Expo Pub, tante curiosità che abbiamo estrapolato, che abbiamo trovato girando nei padiglioni di Expo. Ma torniamo a parlare di alimentazione, lo facciamo con Telmo Piovani. Telmo, siamo un po' confusi, o c'è troppo cibo, o ce n'è poco, o abbiamo tanta fame, o abbiamo poca fame, non è facile. Sì, siamo un po' sfasati. Questa storia che ci raccontava Alberto Pellae è molto bella, no? Perché l'evoluzione è una sorta di sintonizzazione e non sempre è perfetta. Noi abbiamo un sacco di retaggi del passato. Quello che ci ha raccontato Alberto è questo: noi abbiamo l'abitudine atavica, potremmo dire, di fare scorte di cibo che si traducono in tessuto adiposo e diventiamo grassi, perché abitiamo adesso in un ambiente che è completamente diverso, dove c'è una grandissima disponibilità di cibo e quindi un eccesso di calorie. Questa è una cosa che è successa tante volte nell'evoluzione. Pensa per esempio al fatto che a un certo punto noi abbiamo imparato ad allevare gli animali per mangiarli, sì. Quindi abbiamo imparato a convivere con loro. Questo ha cambiato letteralmente il nostro sistema immunitario, perché ci sono un sacco di virus che hanno fatto proprio il salto dai grandi mammiferi a noi. Pensa per esempio, non so, adesso all'influenza suina, all'aviaria, ma anche il tifo, il morbillo, il vaiolo, hanno avuto tutte queste storie. E quando noi europei siamo andati nelle Americhe, noi abbiamo passato loro questi agenti patogeni terribili che hanno portato all'estinzione di intere civiltà, intere popolazioni. reazioni. Un altro disadattamento incredibile che è stato scoperto di recente dagli scienziati si chiama ipotesi dell'igiene, non so se ne hai mai sentito parlare. No. Pare che molte delle malattie autoimmuni, le allergie che si stanno diffondendo tantissimo, soprattutto nei paesi occidentali, siano dovuti al fatto che facciamo una vita troppo igienica, non diciamolo troppo ai ragazzi, ma insomma troppo pulito a volte, cioè il nostro sistema immunitario entra meno in relazione con i germi, si allena di meno e allora va un po' in palla, potremmo dire, cioè attacca dei nemici immaginari, attacca noi stessi, attacca il nostro corpo e genera queste malattie. Quindi siamo tutti un pochino sfasati. E secondo me, però qui sei tu l'esperto, anche il fatto di avere un cervello che si è evoluto migliaia di anni fa e che adesso sta perennemente connesso, un po' come fai tu sempre, che sei sempre connesso, sfida un pochino le nostre capacità sociali, emotive, diciamo tradizionali, no? Che ne dici? Quindi non mi devo lavare le mani prima di andare a tavola e devo spegnere il cellulare. Questi sono i consigli che mi sta dando Telmo Piovani. Adesso invece è il momento dei consigli di Alessandra Falconi, perché si gioca in maniera artistica con l'alimentazione. Expo Kids. Dire, fare, giocare. A terra in vista è il momento dell'arte, come sempre con Alessandra Falconi, atelierista del metodo Bruno Munari, collaboratrice del blog disegnangolo.it. Lei che in ogni puntata ci dà gli spunti legati alla parola. Oggi la parola è alimentazione. Ciao Alessandra. Benvenuta. Grazie. Quale spunto hai per noi? Allora, una tecnica che secondo me è davvero molto bella ed è utile per tutti quei bambini che non vogliono disegnare o perché non amano disegnare o perché sono in una situazione dove non hai i colori, non sei in grado. E l'idea è un po' questa: immaginiamo di voler realizzare un ricettario delle favole o dei cartoni animati tipo il sugo di ragno alla Spider-Man. Sì. Che in tema di alimentazione mi sembrava un'idea carina. Mm-hmm. Noi però ci limitiamo al ricettario, non tocchiamo i fornelli. Cerco un'immagine di Spider-Man su un fumetto o in una pubblicità e sopra ci metto lo scotch trasparente, non però quello che utilizzano di solito i bambini, i rotolini dello spessore di 1,5 cm, ma lo scotch di 4-5 cm che si trova in tutte le ferramenta e le cartolerie d'Italia. Io ritaglio un pezzettino di scotch, lo incollo proprio lo scotcho sull'immagine che ho trovato e che mi piace, ritaglio l'immagine seguendo il contorno dello scotch e poi prendo un contenitore. Sì. Vede, Telmo, mi seguito, è già troppo difficile. No, siamo perplessi, ma ti stiamo seguendo, appunto. Nel senso che poi mangiamo tutto ciò. Bellissimo. Allora, prendo un contenitore in cui metto dell'acqua tiepida caldina. Sì. E metto a bagno il mio pezzettino di immagine e scotch. Okay. Con un'attenzione: lo scotch guarda il basso, l'immagine invece guarda il soffitto. Uh-huh. Perché poi i bambini cominciano a grattare la carta. La carta inumidita diventa una poltiglia, con molta delicatezza per non rovinare l'immagine, comincio a grattare tutta la carta e a quel punto già l'immagine è stata trasferita sullo scotch. Quando lo scotch si asciuga, qui dipende ahimè dalle marche, non sempre il risultato è garantito, alcune marche di scotch lo scotch ritorna adesivo, quindi a quel punto io potrò incollare il mio scotch con Spider-Man sul mio quadernino, sul foglio sul quale stavo scrivendo la ricetta e andare avanti. Se invece lo scotch non è più adesivo, dovrò utilizzare della colla. E a quel punto io posso inventare la mia ricetta rimasta in sospesa, come si farà un sugo di ragno alla Spider-Man, o decidere di utilizzare tutte le immagini che mi piacciono, quelle delle cartoline, quelle. In questo caso il tema era l'alimentazione e quindi potrebbe essere una bella sfida andare alla ricerca di immagini di cibi. È un'ottima dritta, cioè non vedo l'ora di andare a provare con lo scotch per capire. Sicuramente combinerò qualche disastro, però ottima dritta. Grazie davvero Alessandra. Ricordiamo che tutto ciò e anche tanto altro lo potete trovare sul blog disegnangolo.it. davvero tante dritte pedagogiche, tante dritte per fare cose artistiche, grandi e piccini insieme. Ciao Alessandra. Ciao. Ciao a voi. Adesso una filastrocca, la pubblicità e poi ancora terra in vista. cuoco amico. Abbiamo io ed Enrico un grande buon amico, un uomo che fa torte e paste dritte e storte, fa pagnotte e budini, pasticci e tortellini, risotti e pasta asciutte e patatine fritte, fa pizze e cotolette, frittelle con uvette. È un gran cuoco l'amico che abbiamo io ed Enrico. Dall'ascesa dello Stato Islamico all'immigrazione verso l'Europa, dal boom economico dell'Africa ai suoi infiniti conflitti. Giornalisti, fotografi, analisti, politici, operatori umanitari e cittadini saranno ogni giorno i nostri microfoni per raccontare ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Sono Giampaolo Musumeci e anche quest'anno vi dimostrerò che tutti i luoghi meritano di essere visitati, che tante storie devono essere raccontate, che guerre dimenticate e vicende apparentemente distanti sono molto vicine a noi ed entrano ogni giorno nella nostra vita. Vi dimostrerò, insomma, che nessun luogo è lontano. Dal lunedì al venerdì alle 16, qui su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Coop ti aspetta nel supermercato del futuro in Expo Milano 2015. Terra in vista. Terra in vista, l'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici Federico Taddia e Telmo Pievani ancora insieme. La parola di oggi è alimentazione. Stiamo scoprendo appunto quante cose ci sono dentro a un piatto e quante sono anche le conseguenze legate a quello che mangiamo, e lo facciamo ovviamente con le domande dei più piccoli. Ci sono cibi che fanno bene e cibi che fanno male? Quante volte si sente dire, o si dice nel caso appunto se sei bambino o se sei genitore, mangia quella cosa che fa bene, non mangiare quello che fa male? Esiste questa distinzione, Telmo? Chi lo sa, sei così netta. Di sicuro è uno dei principali argomenti a tavola da un sacco di tempo. Beh, per dare risposta a questa domanda abbiamo invitato Katia Petroni, ricercatrice di genetica, insegna nutrigenomica alla Statale di Milano. Ciao Katia, benvenuta a Terra in Vista. Ciao Katia. Buongiorno a voi. Partiamo subito dal difficile: che cos'è la nutrigenomica? Ecco, è una scienza che studia come i nutrienti influenzano il nostro DNA. Ecco, e questo già ci fa capire quanto sia importante quello che ingurgitiamo, quello che mettiamo all'interno del nostro corpo, se può influenzare il nostro DNA. Katia, esiste la risposta a ci sono cibi che fanno bene o cibi che fanno male? Sì, ci sono degli alimenti, dei cibi che fanno bene, andrebbero mangiati in abbondanza molto spesso, e invece ci sono dei cibi che devono essere mangiati poco o solo qualche volta, perché mangiarne troppo può portare a lungo andare a dei problemi di salute. Mm-hmm. E com'è questa divisione? A cosa bisogna stare attenti? Cioè, qual è la differenza tra un cibo che fa bene e un cibo che fa male? Beh, i cibi che fanno bene sono quelli che ci aiutano a prevenire le malattie, sono ricchi di vitamine, di molecole protettive, ci aiutano a crescere, mantenerci in salute. Mm-hmm. Invece quelli che fanno male, se consumati in grande quantità, possono portarci a dei problemi. Quelli più frequenti nei bambini sono qualche volta purtroppo il diabete e anche le malattie cardiovascolari. Mm-hmm. Quindi insomma anche conseguenze molto negative. Esatto. E adesso andiamo a capire perché alcuni alimenti fanno bene ed altri fanno male. Allora, alcuni alimenti, per esempio le uova, la carne, i formaggi, fanno male se consumati in eccesso perché contengono delle molecole che si chiamano acidi grassi omega 6, che sono un particolare tipo di grasso, che vengono convertiti in molecole infiammatorie. Sì. Allora, noi siamo abituati a pensare all'infiammazione quando abbiamo una ferita, quando ci ammaliamo, quindi ci si arrossa la ferita sulla pelle oppure abbiamo la febbre. Ecco, l'infiammazione di cui parlo in questo caso è un'infiammazione molto minore, non dà febbre, non dà arrossamento, non si sente, però può essere alla lunga molto dannosa. Uh-huh. e favorire le malattie. Quindi noi proviamo a immaginare di avere davanti a noi una bilancia, una di quelle a due piatti, e di mettere su un piatto della bilancia gli alimenti ricchi di omega 6. Quali sì. sono? Sono per esempio le patatine fritte, le uova, i formaggi, come ho detto prima, la carne rossa. Ecco, invece sull'altro piatto della bilancia mettiamo gli alimenti ricchi di un altro tipo di grassi, che sono gli omega 3, che invece sono convertiti in antinfiammatori, quindi molecole che ci fanno bene, combattono l'infiammazione, e quindi sono il pesce, per esempio, le noci e tanta frutta e verdura che contengono anche loro molecole antinfiammatorie. Quindi se i due piatti della bilancia pesano uguale, possiamo dire che la nostra dieta è bilanciata, ma se il piatto in cui abbiamo messo gli alimenti con gli omega 6 è più pesante, la nostra dieta è sbilanciata e può portare a quella che dicevo prima, all'infiammazione cronica e quindi alle malattie. Mm-hmm. E se invece sono di più gli omega 3, ci faccio scorta anche di questo benessere? Benissimo, anzi dovrebbero essere bilanciati, ma se ce ne sono di più, i nutrizionisti dicono che se è 4 volte di più il piatto con la bilancia, il piatto della bilancia con gli omega 3, è una cosa molto buona. Katia, senti, facciamo una cosa che non si dovrebbe fare. Parlaci di diete non italiane, così ci consoliamo un po', che sono piene di omega 6. Per esempio la dieta americana. Ecco, la dieta che purtroppo comincia ad essere adottata anche dagli europei, quindi anche qui in Europa. Già. E purtroppo è quella ricca di grassi animali, quindi la carne rossa, i salumi, i formaggi, i cibi fritti, ahimè, le patatine fritte, e poi alimenti ricchi di zuccheri. E qui non abbiamo soltanto lo zucchero bianco, ma abbiamo anche le torte, i gelati, i pasticcini, caramelle, tutte cose buonissime purtroppo. Mm-hmm. Katia, ma tu quando vai a tavola tutte queste cose te le ricordi o ogni tanto fingi di dimenticarle? Qualche volta me le dimentico. Sì, ok. In un ristorante americano di recente ho visto un dessert che si intitolava Chocolate Suicide, suicidio di cioccolato, direi che è perfetto. Sì. Se ci fosse stato scritto sotto, che ne so, trionfo di omega 3, sarebbe stato meglio. Però il cioccolato fa bene, purché sia fondente. Ecco, vedi. Ecco, senza vedi. Mangiarne troppo, ecco, qualche cosa di buono bisogna mangiarlo. Grazie davvero, Katia, per averci insomma fatto bene capire cos'è il mangiare bene, cos'è il mangiare male dal punto di vista delle conseguenze sul nostro fisico. Ciao e buona terra in vista, grazie. Ciao, ancora. Grazie a voi. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Sultanato dell'Oman. Se fate un giro sulle coste del Sultanato dell'Oman, tra le meravigliose spiagge e piscine naturali, facilmente vi capiterà di incontrare le donne del posto, intente a raccogliere cozze e lumache di mare. La pesca, infatti, è un affare di famiglia in Oman e tutti i membri sono coinvolti e lavorano insieme. Una delle specialità dei villaggi di pescatori sono i crostacei, insaporiti con il limone dell'Oman, erbe varie e peperoncino. Un altro piatto tipico si chiama al-maleh, composto principalmente di pesce essiccato tagliato a tranci. Ma nel cuore degli omaniti nulla batte le deliziose sardine essiccate, preparate con limone, cipolla e riso. E dopo gli Expo Pub torniamo a parlare di alimentazione. Telmo, Katia appunto insegna questa materia molto particolare, quanto il cibo possa influenzare il nostro codice, il nostro DNA, ma come avviene questa cosa? Beh, questo che ci ha detto Katia è una cosa bellissima, è stata scoperta da poco nella scienza, cioè che addirittura quello che noi mangiamo e in generale le nostre abitudini, gli stili di vita possono cambiare non soltanto il nostro corpo fisicamente, ma addirittura il nostro DNA. Per questo perché? Perché i geni, lo sappiamo, no? Sono la ricetta, ma non basta. Per fare una torta poi servono gli ingredienti, servono i materiali. E noi sappiamo che nell'evoluzione è molto importante essere flessibili, essere plastici. Allora l'evoluzione che cosa ha inventato? Ha inventato questo sistema ingegnoso per cui tu ti tieni i tuoi stessi geni, quelli non cambiano, la sequenza del tuo DNA. Però in base a quello che mangi, all'ambiente che incontri, puoi regolarli, puoi esprimerli, puoi modularli in modo diverso. Per esempio ci sono delle piante che hanno con lo stesso DNA, se c'è tanta acqua sono fatte in un certo modo, se c'è siccità cambiano completamente. E questa è una nuova materia che si chiama epigenetica. genetica, che è una parola difficile per dire una cosa semplice, cioè come cambiano i nostri geni, come vengono modulati nel corso della nostra vita in base alle nostre esperienze. E pensa che è stato scoperto l'anno scorso che addirittura in qualche caso questi cambiamenti nel nostro DNA possono essere ereditari. Pensa che degli scienziati nordamericani hanno scoperto che se tu prendi dei topini, e che sono maschi, dei papà futuri, no? E gli insegni loro ad annusare un profumo, per esempio profumo di mandorla, e tutte le volte che gli fai annusare questo profumo associ una sensazione di spavento, per esempio una piccola scossa che non fa male, che però li spaventa, loro si abituano ad associare queste due esperienze. Tu prendi questi topini, fai nascere dei nuovi topini alla generazione successiva, e i topini cuccioli che nascono, se gli fai sentire quell'odore, si spaventano. È come se avessero ereditato questa caratteristica acquisita dai loro genitori nella generazione precedente. Non sappiamo se questo può succedere raramente anche nell'uomo, però diciamo che comunque è bene che un papà e una mamma non abbiano cattive abitudini, perché non si sa mai, potrebbero trasmetterle. Queste sono le nuove frontiere della scienza, e adesso invece con la scienza ci giochiamo. Expo Kids. Dire, fare, giocare. Eh sì, ci giochiamo, e lo facciamo con il giornalista scientifico Andrea Vico di TuScience, www.tuscience.it, per conoscere tutte le attività proposte da questa associazione che ha fatto della divulgazione scientifica la propria missione. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buongiorno Telmo. Ciao Andrea. Allora, oggi l'alimentazione è il tema di puntata. Cosa hai preparato per noi? Andiamo in cucina, ovviamente. Vai. Allora, vi propongo un modo diverso dal solito di fare esperimenti in cucina usando la gelatina, cioè quella che noi chiamiamo colla di pesce. Il nome ormai è un po' improprio perché dello storione da cui un tempo si traeva il collagene per fare i fogli da poi trasformare in gelatina non c'è più traccia. Molto più facilmente la colla di pesce che trovate ai supermercati deriva dalla cotica del maiale. Lo storione però intanto è a crisi quasi in estinzione a causa di questo. Per altri motivi, immagino. Allora, quello che volevo proporvi è quello di creare un dessert usando la gelatina e usando succhi e frutti, poi facciamo anche una versione un po' più alcolica per gli adulti, in modo da masticare quello che di solito siamo abituati a bere, tipicamente il succo di pompelmo o la limonata. Noi la beviamo, quindi sentiamo il gusto tipico di questi agrumi in forma di succo, però la deglutiamo abbastanza rapidamente, quindi non rimane tanto in bocca, e quindi non mettiamo in moto quel complesso di meccanismi tra lingua, naso, eccetera eccetera. Quindi se noi facciamo della gelatina con il succo di pompelmo, per esempio, e poi ci spezzettiamo dentro dei pezzettini di pesca di albicocca, oppure usiamo il succo di pera e ci mettiamo dentro un po' di mirtilli e lamponi che magari abbiamo raccolto in una nostra passeggiata in montagna, e mettiamo in frigo per una mezz'ora, 40 minuti, fin quando la gelatina non si è solidificata, avremo una merenda, un dessert con degli aromi e delle fragranze particolari. Sì. E anche dal punto di vista dell'alimentazione, chiaramente abbiamo mantenuto intatte le proprietà della frutta e le gusteremo in maniera diversa. La versione un pochettino più alcolica è con lo stesso procedimento, quindi gelificare un dito di rum e successivamente, quindi in un secondo tempo, un po' di succo di pera, avremo un cocktail, oppure con un vino bianco molto fruttato, tipo l'Arneis delle mie terre piemontesi, metterci dentro dei pezzettini di pesca molto molto molto matura, e quindi avremo un effetto un po' sorprendente. E anche in questo caso vi invito a fotografare i vostri esperimenti in cucina con la gelatina, la frutta e i succhi, e a postarle sulla nostra pagina Facebook, così vedremo come sono andati questi piccoli esperimenti di cucina e alimentazione. Assolutamente curioso, non vedo l'ora di vedere queste creazioni. Grazie come sempre ad Andrea Vico. Ciao Andrea, alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao. Adesso ci fermiamo, una filastrocca, il traffico e poi ancora Terra in Vista. Budino, non tremare. Budino, non tremare. Non sono il terremoto. Budino, non tremare. Non sono il maremoto. Budino, non tremare. Sono solo un bambino che ti vuole mangiare. Terra in vista. Eccoci qua, Terra in vista, puntata dedicata all'alimentazione. Questa è la terza domanda che i bambini ci hanno posto. Ci sono sempre state le patatine fritte? Ci sono sempre state le patatine fritte? Telmo, non è male come domanda, eh? Questa non me l'aspettavo. E invece, beh, l'imprevedibilità dei nostri giovani ascoltatori è la ricchezza di questo programma. E per rispondere a questo quesito abbiamo convocato un esperto. Lui è docente di storia dell'alimentazione presso l'Università di Bologna. Diamo il benvenuto al professor Massimo Montanari. Ciao Massimo, benvenuto a Terra in Vista. Grazie. Ti piacciono le patatine fritte? Se sono fatte in casa e senza olio troppo vecchio, mi piacciono molto. Ok, giusto. E poi ci sono anche quelle cattive, ma tutte le cose sono buone e cattive. Partiamo proprio dalle patatine fritte. Questa è una domanda appunto imprevedibile. C'è una data di nascita delle patatine? Dunque, la data di nascita non c'è, però è una storia molto interessante, perché è la storia di un incontro in qualche modo fra un prodotto, le patate, sì, che sono di origine americana e che quindi gli europei non hanno conosciuto fino all'età moderna, solamente dal 600 in poi che le patate hanno cominciato ad arrivare in Europa e solamente nel 700-800 hanno cominciato a essere apprezzate in cucina. Quindi è un prodotto nuovo. Mentre l'altro ingrediente fondamentale delle patate fritte, che è la frittura, era una tecnica che gli americani, gli indigeni d'America, prima dell'arrivo degli europei, non conoscevano. Cioè la frittura, noi a volte pensiamo che sia una cosa ovvia, sì, in realtà non tutte le società praticano la frittura, perché per friggere ci vuole un grasso, ci vuole olio o ci vuole burro o ci vuole strutto, quindi ci vogliono o olivi o mucche che fanno il latte con cui fare il burro o maiali con cui fare il lardo e poi lo strutto. Ora, nell'America precolombiana, cioè le popolazioni indigene che abitavano l'America prima dell'arrivo degli europei, non avevano nessuna di queste tre risorse. Ovviamente sopravvivevano benissimo con altre cose, ma certo, non friggevano perché non avevano olivi, non avevano quindi olio, non avevano mucche e non avevano maiali. Certo. Allora, invece, nelle tradizioni alimentari dell'Europa, fin dall'antichità e poi nel Medioevo e poi nel Rinascimento, l'abitudine di friggere le cose era un'abitudine molto popolare, perché la frittura, insomma, è un tipo di cottura molto gustosa che rende gustoso anche i prodotti più poveri. Mm-hmm. Non per niente tante volte noi diciamo mi faccio un fritto misto, e dove qual è il protagonista del fritto misto? Non sono gli ingredienti, è la frittura. Certo. E quindi c'era una grande tradizione in Europa di friggere le cose. Le patate fritte sono l'incontro fra un prodotto americano e un modo di cottura tipicamente europeo, che poi si mescolano insieme e danno origine quando? Io ovviamente non ho una data, però direi che siamo nell'Ottocento, quindi è può lì sembrare un'epoca lontana, ma ieri. È ieri, certo. E c'è una cosa particolare a proposito di questa, è come se le patate arrivando in Europa si europeizzassero in qualche modo, insomma fossero sottoposte a un tipo di cottura che è tipicamente europea. Infatti gli americani ancora oggi chiamano le patate fritte French fries, che in inglese vuol dire fritte francesi. Già, ma noi l'abbiamo raccontato tante volte, Massimo, il fatto che l'alimentazione è un incontro di viaggi, di piante, di culture, di meticciati. In fondo è la stessa cosa, la pizza. La nostra alimentazione non sarebbe così se non ci fossero stati i viaggi planetari, no? Ma certo, ma pensiamo anche a uno dei piatti più caratteristici della cultura gastronomica italiana, gli spaghetti al pomodoro. Gli spaghetti al pomodoro sono anche questi il frutto di un incontro, di due storie diverse che nascono in luoghi diversi del mondo. Anche in questo caso c'è una storia che è una storia americana, perché il prodotto pomodoro viene dall'America. Sì. E un altro prodotto, lo spaghetto, che anche lui non è esistito da sempre, ma nasce durante il Medioevo ed è un'invenzione probabilmente degli arabi, quello della pasta secca, che gli arabi portano in Italia, in Sicilia, da qui si diffonde un po' in tutto il paese, e per tanto tempo, dal Medioevo in avanti, gli spaghetti, come tutta la pasta, vengono conditi con burro e formaggio, cioè sono bianchi. Per arrivare allo spaghetto al pomodoro bisogna anche qui aspettare molto tardi, bisogna aspettare l'Ottocento. Da qualche tempo si era diffusa in Europa la salsa al pomodoro, che gli italiani chiamavano salsa spagnola, probabilmente perché gli spagnoli erano stati i primi a fare la salsa di pomodoro, che poi usavano come contorno della carne. E gli italiani nell'Ottocento, in qualche momento, hanno provato a usare questa salsa per accompagnare gli spaghetti. E qui una data c'è, ma non è la data di invenzione, è la data in cui per la prima volta gli spaghetti al pomodoro compaiono in un ricettario. E qual è questa data? È 1837, okay. Ed è un ricettario napoletano di Ippolito Cavalcanti, sì, che parla di questo modo di condire gli spaghetti e la pasta, i maccheroni, come dicevano poi e come dicono tuttora i napoletani, con la salsa di pomodoro. Matrimonio riuscito. Scusa Massimo, spaghetti al, sì, pomodoro, tra l'altro anche il titolo di un tuo libro che uscirà tra qualche settimana, scritto insieme a Roberto Piumini, dove parli proprio di questo ai, sì, più giovani. Sì. Oggi stiamo dando un assaggio di quanto la storia dell'alimentazione sia storia dei popoli, sia geografia, sia viaggio, sia veramente un mondo per conoscersi meglio. Se tu potessi scegliere in quale epoca della storia avresti voluto fare un pranzo? È una domanda difficile. Il Medioevo, forse. Io sono convinto che... io studio il Medioevo, io insegno storia medievale, ma non credo che nel Medioevo io avrei apprezzato molto la cucina medievale. Cioè, in teoria potrei mangiare in qualsiasi momento della storia, ma io vivo oggi e quindi io sono cresciuto con un gusto che è quello di oggi. Mm-hmm. Ognuno è figlio del suo tempo, quindi se io dovessi dire qual è l'epoca della storia in cui desidererei mangiare, la mia risposta è oggi. E non un banchetto nell'antica Grecia o a Roma antica, niente. Ma voglio dire, queste cose si fanno, sono curiosità, sono cose divertenti, però non potranno mai restituire a me, Massimo Montanari, che vive nel ventunesimo secolo, la stessa emozione che magari il Massimo Montanari del Medioevo poteva provare mangiando quei cibi là. È un po' come quando ascoltiamo la musica medievale agli uomini del Medioevo sembrava musica moderna, è come se io ascolto oggi la musica rock. La musica antica e i gusti antichi mi fa quell'effetto di esotico, di strano, che in realtà non fa parte di quella storia lì. Massimo, grazie davvero per averci fatto viaggiare nel tempo e nei sapori. Buon appetito. Grazie anche a voi. Grazie. A presto. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Polonia. Nei pressi del castello di Chorzów, tra le montagne della Polonia, pascolano le pecore dal cui latte nasce il famoso formaggio Osipek. Per ottenerlo, bisogna aggiungere al latte munto la sera quello del mattino e scaldare il tutto in una pentola di rame a 36 gradi insieme al caglio di vitello. Il momento più importante arriva quando i pastori, con gesti lenti della tradizione, lavorano il formaggio con le mani per dargli la tipica forma di fuso. Come un tempo, la lavorazione si fa alla luce del braciere, nella semioscurità del Bazovka, la capanna a forma triangolare. Un bel viaggio nel tempo. E queste sono le cose che abbiamo imparato oggi. Che non ci siamo evoluti per sopravvivere in un fast food. Che il nostro corpo fa scorte di grasso, ma poi non sa che farsene. Che ogni buon piatto è frutto di un incontro tra mondi lontani. Che quello che mangiamo ogni giorno cambia addirittura il nostro DNA. Che gli spaghetti sono arabi e che ogni epoca ha i suoi banchetti. E termina qui questa puntata di Terra in Vista. Terra in Vista @radio24.it. Se volete scriverci, come sempre, vi ricordo che tutto ciò lo potete riascoltare sul nostro sito radio24.it. Andate nelle nostre pagine, lì nelle sezioni extra trovate le filastrocche, gli expo pop, le interviste, i racconti di Telmo Pievani. Un grazie a chi ha scritto con noi la puntata, quindi Margherita Aine e Silvia Righini. Un grazie a Roberta Frisani oggi alla parte tecnica. Le attività pratiche invece, come sempre, sono state proposte da Andrea Vico e Alessandra Falconi, la sigla invece dei Matita. Ciao Telmo, grazie per aver viaggiato anche oggi con noi. A presto. L'appuntamento è alla prossima parola, terra in vista. Filastrocca della frutta. Gira, gira, s'arrivasse nel paese della frutta, che si dice ha una stagione, e ci fosse proprio tutta, pera, fragola, popone, quella bella frutta sana, mel'arancia, melagrana, quella bella frutta fina, l'albicocca, la susina, quella bella frutta spretta, uva spina, nespoletta, giuggioletta di montagna, e il marrone e la castagna, e tra i pampini a corona l'uva buona. E ci fosser le nocciole e le mele lazzarole, con le noci tutte quante, tutte insieme sulle piante, tutte insieme nel corbello, ce ne fossero mai tante, da giocarci al rimbalzello, da poterne regalare, da poterne dare a tutti, da poterne, che allegria, far razzia.